Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7.22 e tramonterà alle 18.24. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Gloria De Canutti. A quanto pare il mais rialza la testa nei campi del Friuli Venezia Giulia. Dopo la buona annata e le difficoltà della soia, tanti agricoltori torneranno a questa coltura. Lo si capisce dalle intenzioni di semina a cui oggi dedichiamo l'apertura della puntata, occupandoci anche di terze colture, sostanzialmente stabili, e delle foraggere. Per la rubrica dell'orto avremo un contributo sull'anguria, chiadetta di Stefano Montello, è un frutto musicale. Al castagno, uno degli alberi più maestosi e utili dei nostri boschi, altrimenti chiamato anche albero del pane, è invece dedicata la rubrica delle piante. Mentre parlando di qualità e sicurezza alimentare, cercheremo di capire importanza e significato di sigle che incontriamo ogni giorno, come DOP, IGT, STG. Lo spazio che dedichiamo alla cucina oggi si interessa di minestre, della loro storia e presente, partendo da un brano stupendo di padre David Maria Turoldo. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana concludono la puntata. Due volte all'anno, Vita nei campi incontra Andrea Fabbro del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia per parlare di intenzioni di semina, le vere cartine di tornasole per l'andamento dell'agricoltura nella nostra regione. Partiamo però da come è andata. Stiamo terminando le trebbiature del mais e devo dire che quest'anno in molti areali della nostra regione c'è soddisfazione da parte degli agricoltori e maiscoltori perché le produzioni sono buone, erano qualche anno che non vedevamo produzioni così importanti e anche diciamo sostanzialmente la qualità è una qualità che si attesta su valori interessanti. Il prezzo tiene? Sì, il prezzo della granella del mais in questo momento dovrebbe tenere, certo che ci troviamo a competere con uno scenario internazionale in cui sono presenti alcune incertezze e queste potrebbero anche riversarsi sulle quotazioni del mais, però insomma personalmente sono abbastanza ottimista, ecco, e spero che questo mio ottimismo poi sia confermato anche dai dati di fatto reali. Non buone nuove invece dalla soia? No, per quanto riguarda la soia siamo in una fase di trebbiatura agli inizi, però una serie di problematiche che vanno dall'andamento stagionale ai problemi di cimici che in alcuni comprensori della nostra regione è un fatto abbastanza importante, fa sì che quest'anno la coltura della soia non sia particolarmente presente dal punto di vista delle produzioni, almeno questo è quello che sentiamo dai primi dati che raccogliamo dalle zone della nostra regione. E le terze colture come sono andate? Le terze colture sono andate discretamente bene, parliamo in modo particolare di quello che è stato il girasole, che è una coltura che in alcune comprensorie è presente e probabilmente il prossimo anno potrebbe anche andare in leggero aumento. C'è stato poi tutto il discorso dei cereali autunnali che hanno risentito forse in parte di un andamento stagionale non positivo, però insomma la qualità che noi facciamo di certi prodotti, di certi frumenti sta diventando qualcosa di interessante che sicuramente andrà valorizzato e andrà un momentino anche seguito con maggiore attenzione. E in questo quadro sembra rialzare la testa al mais? Probabilmente sì, come dicevo prima le produzioni sono importanti, in tutti gli areali della nostra regione il mais sta producendo bene e questo sicuramente è una nota positiva che le aziende agricole stanno cogliendo e questo potrebbe farci pensare, soprattutto se lo mettiamo assieme a quelle che possono essere previsioni sulla soia, forse come dicevo prima non ottimistiche, a una ripresa della superficie a mais nella nostra regione. E per quanto riguarda le terze colture ci sono delle diversificazioni ulteriori oppure ci si limita al girasole e al colza? Indubbiamente il colza quest'anno ha aumentato come superficie, stiamo parlando sempre di superfici abbastanza contenute nella nostra regione, però cominciano a essere una coltura che si vede in molti areali, che è presente. Indubbiamente il colza sarà presente, come dicevo prima, sarà presente una superficie a girasole che potrebbe aumentare nei numeri rispetto all'anno passato, e se l'andamento stagionale è quello che vediamo in questi giorni, è probabile anche che le culture a semi autunnali, quindi frumento e orzo, possono prendere un po' di piede e rientrare in maniera abbastanza significativa, diciamo, nei nostri piani di rotazione e di coltivazione delle aziende. I parenti poveri, le foraggere. Ai parenti poveri. Noi non siamo una regione sostanzialmente avvezza a fare grandi culture foraggere. Abbiamo una discreta presenza di medica e di prati, che poi sono prati stabili che poi vengono appunto sfalciati. Certo, l'andamento stagionale non è stato positivo per queste culture, e poi ripeto che comunque il quadro complessivo della nostra zootecnia in questo momento segna alcuni punti che devono essere un momentino chiariti, e di conseguenza anche le foraggere risentono un po' di questo quadro. Forse un po' di nostalgia per l'estate appena trascorsa. Oggi Stefano Monterlo ci parla dell'anguria, un frutto a suo dire musicale. Per produrre angurie bisogna avere a disposizione un orto piuttosto grande. Le angurie infatti hanno bisogno di spazio, almeno 1,50 m tra fila e sulla fila stessa. L'anguria era già conosciuta nell'antico Egitto per il suo liquido che toglie la sete ed il suo sapore dolce, infatti per il 93% è composta di acqua. A tal proposito mi è stato raccontato un aneddoto. Proprio in Egitto e durante i mesi estivi, ad un mio conoscente, gli abitanti del luogo hanno proposto di consumare una fetta di anguria dopo che la stessa era stata tagliata, aperta e lasciata qualche minuto al sole. Questo mio conoscente in principio si è ritratto inorridito, immaginando che l'anguria pressoché cotta non potesse essere di gradimento per il suo stomaco. Ma cedendo alle insistenze dei suoi ospiti e temendo di essere scortese, infine accettò. E con sua grande sorpresa, la polpa dell'anguria lasciata evaporare l'acqua sotto il sole per qualche minuto si rivelò freschissima e molto gradevole. Dopotutto, chi vive nel deserto non dispone di frigoriferi all'occorrenza e quindi aguzza l'ingegno. Il sapore dolce non deve ingannare né spaventare le persone che soffrono di diabete. Infatti la percentuale di zucchero contenuta nell'anguria arriva solo al 5%, ed è invece ricca di vitamina A, di vitamina C, di potassio ed è completamente priva di grassi. Sì, possiamo pure dire che l'anguria canta. Non c'è bisogno di imparare alfabeti nuovi per tradurre il canto dell'anguria nelle lingue degli umani. Basta saper ascoltare. E quando il suono che l'anguria emette è un suono cupo, indistinto, lontano, oceanico, lei ti avverte che non è ancora pronta e che all'interno è ancora bianca. Quando il suono dell'anguria diventa più orecchiabile, più intonato, certamente più allegro, lei invece ti avverte che siamo entrati nella costellazione del leone e che le giornate cominciano ad accorciarsi. Ma quando le righe caratteristiche della buccia cominciano ad allargarsi, quando il pampino attorcigliato che lega il frutto alla pianta madre tende a seccarsi, e quando, se la si schiaccia dolcemente, la polpa emette un simpatico scricchiolio, allora il canto dell'anguria si fa cristallino, è perfetto e diventa Mozart. Altrimenti chiamato anche l'albero del pane, il castagno, molto diffuso una volta anche nella nostra regione, è tra le piante più maestose e utili che si possono trovare nei boschi, come ci spiega Antonino Danelutto. È assai difficile stabilire le origini del castagno. Reperti fossili lo fanno risalire almeno ad alcune decine di millenni fa, e la sua culla pare sia stata l'area sud-est mediterranea. Coltivato diffusamente fin dai tempi remoti e in selva Tichito, nella nostra regione è raro nei boschi planiziali e abbastanza comune in quelli delle zone collinari e submontane, nonostante si siano ridotti non solo a causa del cancro della corteccia o altre malattie, ma anche per l'incuria e l'abbandono da parte dei proprietari. In tempi di miseria non lontani, il castagno con i suoi frutti costituiva una importante risorsa per le famiglie, tanto da essere definito l'albero del pane. Le castagne, ad alto contenuto energetico, vengono consumate secche, arrostite, bollite, caramellate, in zuppe essiccate e trasformate in farina, sono impiegate per dolci, in particolare per il castagnaccio, apprezzato fin dai tempi di Roma antica. Il castagno, nome scientifico Castanea sativa, in friulano chiastinar, chiastenar o tistignar, è un bell'albero dalla chioma ampia e maestosa, alto anche oltre 25 metri, con tronco dal legno duro. La corteccia giovane è liscia e grigia, con la crescita tende a screpolarsi e diventa bruna. Le foglie sono picciolate, lucide, seghettate, lunghe mediamente 15-20 cm. Essendo il castagno una pianta monoica, i suoi fiori maschili giallicci, riuniti in una lunga spiga eretta, detta amento, sono separati da quelli femminili, che si presentano singoli o raggruppati a 2-3. Il frutto spinoso è il riccio, che a maturità si apre in 4 valve e libera da 1 a 3 castagne. Le foglie vengono impiegate nella medicina popolare contro la tosse e le infiammazioni delle vie respiratorie. Inoltre sono astringenti e remineralizzanti. Sono efficaci cicatrizzanti su ulcere e ferite. Le foglie, ma ancor più le bucce delle castagne e la corteccia, sono ricche di tannini e quindi adatte per la concia delle pelli. Ottimo il miele, scuro e dal profumo intenso. Il castagno più vecchio d'Italia e forse d'Europa ha un'età stimata da 2000 a 4000 anni, ha una circonferenza di 22 metri ed è alto altrettanto. È il castagno dei 100 cavalli, che si trova nel parco regionale dell'Etna. Si narra che durante un temporale vi trovò riparo una non ben identificata regina con il suo seguito di 100 cavalieri. Seconda puntata per la rubrica sulla qualità e sicurezza sulle nostre tavole con Claudia Fontanini, la responsabile dell'ufficio certificazione di qualità del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia. Oggi ci parla qualità di origine e regimi europei di qualità, DOP, GP, STG. Che cosa significano? Con gli esempi. I prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti rappresentano l'eccellenza della produzione agroalimentare europea. Sono espressioni della cultura tradizionale e frutto di una combinazione unica di fattori umani e ambientali, caratteristica di un determinato territorio. Non sorprenderà sapere che l'Italia detiene la leadership per numero di prodotti riconosciuti secondo questi regimi di qualità. Si tratta dei prodotti normalmente identificati con gli acronimi DOP e IGP. Approfondiamone i significati. DOP, denominazione di origine protetta, è relativa a un prodotto originario di un determinato territorio e le cui fasi produttive si svolgono tutte in un'area geografica delimitata. A tale area sono attribuibili le qualità o le caratteristiche del prodotto. Per esempio in regione abbiamo il Montasio, il prosciutto di San Daniele, la Brovada, il Tergeste. Un prodotto IGP, indicazione geografica protetta, presenta invece una caratterizzazione geografica in termini di qualità legata anche a una sola fase del ciclo produttivo, senza che l'intero processo debba necessariamente avvenire all'interno di un'area geografica ben definita. Esempi di IGP in regione sono il prosciutto di Sauris o la Pitina. Esiste poi l'attestazione di tipicità STG, specialità tradizionale garantita, che è attribuibile a prodotti con caratteristiche legate al metodo di produzione o alla composizione che fanno parte della tradizione di una zona ma che non vengono ottenuti solo in tale area. Pensiamo alla pizza napoletana STG. La base giuridica che regola oggi la materia è un regolamento europeo, nello specifico il regolamento 1152 del 2012, che difende gli interessi dei produttori, perché consente di salvaguardare determinate denominazioni attraverso la loro registrazione e fornisce un modo per comunicare ai consumatori le caratteristiche dei prodotti in maniera trasparente e in condizioni di concorrenza leale. Al tempo stesso tutela la buona fede dei consumatori, che sempre più chiedono qualità e prodotti tradizionali. Per ognuno di questi prodotti esiste uno specifico disciplinare che definisce vari aspetti come il nome del prodotto e il metodo di ottenimento. Gli operatori che aderiscono a questi regimi di qualità devono rispettarlo e sono soggetti a un sistema di verifiche. La contraffazione di DOP e IGP è un reato previsto dal codice penale. I simboli di identificazione riportati sulle etichette sono diversi per le tre categorie, di colore giallo e rosso per DOP, giallo e blu per le altre due. Inutile che cerchiate il bollino sulla pizza con l'ananas, non lo troverete di certo. Prima dell'arrivo relativamente recente della pasta asciutta, le minestre erano il piatto fisso delle mense, non solo dei friulani, che, come ci dice oggi Roberto Zotta, riuscivano a differenziare sia pur nella loro povera semplicità. A riprova oggi ci dà la ricetta di una zuppa di formaggio montasio. Con l'arrivo dell'autunno e dei primi freddi si riscoprono cibi corroboranti che durante l'estate siano forse lasciati da parte, come zuppe, minestre e, quando il freddo è più intenso, anche le iote. Giuseppina Perusini Antonini nel 1949 scriveva che il friulano desidera la scodella di minestra calda, l'apprezza, la vuole ben preparata, come e quanto i meridionali ci tengono ai maccheroni. Nel passato, in tempi di difficoltà, la minestra era molte volte l'unico piatto. Vi leggo a proposito un toccante scritto del friulano padre Davide Maria Turoldo dal titolo «La mia minestra». Era una minestra sempre uguale, però la fame era sempre nuova, così ti pareva nuova anche la minestra. E poi nuova era ogni giorno la cura con cui tua madre la preparava. Ora ci metteva qualche pizzico di aglio in più e anche del pepe ci metteva. Poi qualche radice che sapeva lei, ora qualche patata con carote e altri legumi, ma sempre orzo. Appena accorgimenti semplici per darle un sapore che non ti disgustasse mai. Nei giorni di maggior fatica ci metteva dentro di tutto, specialmente qualche costina di maiale e anche qualche salsiccia che si fondesse con l'orzo. Un sapore da allungarti il collo. E di domenica faceva addirittura un minestrone con i fagioli migliori, quel color castagna che parevano di cioccolata. Fagioli conservati apposta per la domenica. Dio che minestra! Piero Adami ricorda che la minestra carnica è un piatto prevalentemente brodoso, sempre ben caldo, per combattere al meglio la rigidità del clima, inizialmente molto povero, ma che si è arricchito man mano di ingredienti piuttosto semplici, come la batude, ossia latticello, ricotta o latte, divenendo spesso una preparazione ricca di fantasia e di rustica raffinatezza, equilibrata nei sapori con caratteristiche gastronomiche ben definite. Oggi vi propongo una rivisitazione moderna, delicata e raffinata di minestra, una zuppa di formaggio latteria di uno chef stellato di Cormons. Il formaggio latteria montasio è documentato nella regione già dal 1200, quando veniva prodotto ad opera dei benedettini dell'abbazia di Moggio. In una pentola fate stufare per qualche minuto 100 g di burro con una cipolla media tritata. Aggiungete 50 g di farina e lasciate tostare un po' mescolando. Versate a questo punto un litro di buon brodo vegetale e portate ad ebollizione e lasciate sobbollire per una decina di minuti. Aggiungete 3 etti di formaggio latteria giovane grattugiato e cucinate ancora un paio di minuti. Togliete dal fuoco, aggiungete 3 rametti di maggiorana tritata e 2 tuorli d'uovo. Con l'aiuto di un frullatore di immersione rendete omogenea la zuppa. Passate al colino cinese e regolate di sale e pepe. Se volete proprio eccedere, anche una grattata di tartufo. Buon appetito! Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tenero buono mercantile tra 19,30 e 19,60, l'orzo tra 19,80 e 20,30 e la soia tra 32 e 32,50. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 20 centesimi, mentre la soia è diminuita di 4,80 euro il quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano cenni di stabilità e i mercati dei bovini da macello quotano le vacche fine carriera di prima qualità a peso morto tra 2,50 e 2,90 euro al chilo, quelli di seconda tra 1,90 e 2,45. Quotazioni ferme pure nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blubelga maschi vengono pagati tra 5,80 e 6,50 euro al chilo IVA esclusa, i pezzati rossi tra 4,80 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,30 e i bruni tra 1,70 e 2 euro al chilo. Per l'occasione informo che giovedì 18 ottobre alle ore 10.30 al centro zonale Aste di Tolmezzo si terrà un'asta per bovine da vita, pezzate rosse, brune e frisone. Cenni di pesantezza invece nel settore suinicolo, dove i lattonzoli franco partenza da 40 kg sono pagati a 1,90 euro al chilo, IVA esclusa, i grassi da macello a 1,34. Domanda sostenuta nel comparto caseario, con il montaggio fresco quotato tra 5,10 e 5,80 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 6,50 e 7 euro, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,60 e 8 euro al chilo, mentre il latte naturale di vacca franco stalla, compresa refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 36,50 centesimi il litro più premi qualità IVA. Infine, scambi attivi sui mercati avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,13 e 1,15 euro al chilo IVA esclusa. I tacchini maschi tra 1,39 e 1,41, le faraone tra 2,35 e 2,39, le anatre tra 2,30 e 2,34, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUN di Verona tra 2,16 e 2,22, le uova da 63 a 73 grammi a 13,20 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanutto, l'andamento del tempo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Il mese di ottobre è iniziato con l'arrivo di un fronte freddo atlantico, con piogge da moderate ad abbondanti, specie la sera, quando è anche arrivata la neve, fino a 1500 metri circa sulle Alpi, 1700 sulle Prealpi. Poi il tempo è nettamente migliorato, abbiamo avuto sole dal 2 al 5 ottobre, con temperature massime oltre i 20 gradi e minime inferiori ai 10 in pianura. Il 5 ottobre la temperatura ha toccato i 25 gradi in pianura. Il giorno 6, una depressione mediterranea è risalita verso la regione, portando qualche pioggia sparsa in giornata e piogge abbondanti o intense nella notte, con quantitativi sulle Prealpi anche di 100 mm, mentre in pianura localmente si sono raggiunti i 50 mm. Era da oltre un mese che non si avevano piogge così abbondanti su tutto il territorio. Dall'8 ottobre il tempo tende a stabilizzarsi e si apre un lungo periodo con prevalenza di correnti nord-orientali più secche, che determinano stabilità, prevalenza di sole e buona moderata sulla costa. Buona l'escursione termica in pianura, con minime sui 12-13 gradi e massime sui 25-26, condizioni che si sono mantenute sostanzialmente fino a oggi e che hanno rappresentato un periodo decisamente bello per la stagione. La prima decade si è chiusa con temperature medie nella norma, ma frutto di una compensazione tra un inizio freddo e una fine calda, mentre la seconda decade è stata ben più calda della norma. Anche per i prossimi giorni, l'estensione dell'anticiclone russo verso l'Europa centrale impedirà l'entrata dei fronti atlantici e favorirà condizioni di tempo stabile sul nord Italia. Lunedì potrebbe giungere aria un po' più umida, poi l'anticiclone rinforzerà nuovamente. Domani dunque il cielo potrebbe essere da poco nuvoloso a temporaneamente variabile per il passaggio di nubi in quota. La costa soffriranno venti di brezza. Nei giorni successivi il tempo tornerà a essere bello, con cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla costa soffrirà brezza e le temperature rimarranno grosso modo dagli 11 ai 25 gradi in pianura, dai 15 ai 23 sulla costa. Lo zero termico si attesterà attorno ai 3000 metri circa. Continua dunque questa fase di tempo mite, con temperature di 3-5 gradi sopra la media. Nonostante queste proiezioni siano abbastanza stabili, si consiglia, come sempre, di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: tutti gli rosi se van in fen, ovvero tutti i fiori diventano fieno, caducità della bellezza da una parte, ma allo stesso tempo trasformazione in un alimento utile per gli animali della stalla. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it e potete trovarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi e riascoltarci sulla pagina web www.rainews.it/tgr/fvg. Armando Mucchino, Gloria De Ganuti e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei Campi, settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.